L'autunno portò a Meg altre prove ed esperienze. Sally Moffat tornò a sentire la vecchia amicizia e ogni momento compariva nella casetta dei Brooke per una chiacchieratina, per venire a prendere quella povera Meg e farle passare la giornata nella sua casa di ricca signora. Quegli inviti erano ben accetti, specialmente nelle tristi giornate invernali. Meg si sentiva molto sola. A casa della mamma tutti avevano da fare. John non tornava che a sera. Non le restava altra risorsa che mettersi a cucire, o leggere, o dondolarsi per le stanze senza concludere nulla, e così andare a fare due chiacchiere con l'amica diventò un'abitudine. Ammirava vivamente tutte le belle cose che vedeva in casa di Sally, mortificata di non essere in grado di procurarsele. Sally però era buona e spesso voleva farle un piccolo dono, quando capiva che Meg lo desiderava molto. Meg non accettava, sentiva che John non avrebbe approvato. Eppure, quella sciocchina finì col fare una cosa che a John doveva dispiacere molto di più. Sapeva quali erano le entrate di suo marito e si compiaceva nel pensiero che egli aveva fiducia in lei, in quanto le affidava non solo la sua felicità, ma anche una cosa che certuni apprezzavano, pare anche di più, il suo denaro. Lei sapeva dove stava, era libera di prenderne quanto voleva. La sola cosa che John esigeva era che lei tenesse conto esatto anche del soldo, pagasse ogni mese le note e si ricordasse sempre che non erano ricchi. Fino allora lei aveva fatto bene, prudente ed esatta, teneva i suoi libretti dei conti in ordine perfetto e ad ogni fine mese li faceva vedere al marito senza avere nulla da nascondere. Ma in quell'autunno arrivò furtiva la tentazione. Non si trattò nient'altro che di un vestito. A Meg rincresceva di essere commiserata, non voleva sentirsi in stato di inferiorità, era una cosa irritante e si vergognava anche di confessarlo. Ogni tanto si concedeva qualche piccola consolazione comprando, per esempio, un oggettino grazioso, tanto che Sally non si accorgesse che lei doveva limitarsi nelle spese. Dopo ne aveva rimorso perché 9 volte su 10 l'oggettino grazioso non era necessario, ma la spesa era così piccola che non valeva la pena di preoccuparsene. Intanto il denaro che se ne andava così faceva, senza che lei se ne accorgesse, una sommetta notevole. Insomma, nelle visite ai negozi con l'amica, Meg non era più semplice spettatrice. Ma le cianfrusaglie costano sempre un po' di più di quanto uno si immagina. Venne un mese che il totale giunse a una cifra alquanto impressionante. Quel mese John era molto occupato e non ebbe tempo di esaminare i conti. Il mese dopo era fuori. Ma alla fine del trimestre venne il re de rationem, un re de rationem che Meg non doveva poi scordare più. Qualche giorno prima aveva fatto una cosa orrenda che le pesava sulla coscienza. Sally aveva comprata la stoffa per un vestito di seta. Anche a Meg venne una gran voglia di farsene uno, leggero, per la sera. Quello nero che aveva era così comune. Le cose semplici, modeste, vanno bene per le signorine. La zia Marcia a Capodanno faceva alle quattro sorelle un regalo di $24 a testa. Non c'era che un mese da aspettare, ma c'era nel negozio un delizioso taglio di seta violetta che era una vera occasione. Il denaro Meg lo aveva in mano, ma ci voleva anche il coraggio di adoperarlo. John, del resto, non le diceva sempre tutto ciò che è mio è anche tuo? Eh sì. Ma cosa avrebbe detto quando si fosse accorto che lei aveva speso non solo i $24 attesi, ma anche altri 25 tolti dal fondo affidatole? Sally insisteva per deciderla, si offriva di farle un prestito. Con le migliori intenzioni del mondo faceva la parte del diavolo tentatore e Meg cedette. Il commesso le mostrava la bella seta lucente, ripetendo: "Un vero affare, signora, ve lo garantisco." Un momento dopo, la stoffa era già tagliata e pagata. Sally fu tutta contenta e anche Meg rideva come se la cosa non avesse importanza, ma poco dopo, appena salì in carrozza con l'amica, si sentì come se avesse rubato e la polizia le fosse alle calcagna. Giunta a casa, cercò di attutire i rimorsi spiegando e ammirando la bella seta, ma adesso non aveva più quel lustro d'argento e a guardarla bene non era del colore che le andava. Le pareva che il prezzo, $50, fosse ripetuto con stampiglia per tutta la lunghezza. La mise da parte, ma le tornava continuamente davanti agli occhi come un'ossessione, presentandole non già un'immagine piacevole, quale suol darle il pensiero di un vestito nuovo, ma come uno spettro implacabile che non voleva dileguarsi. La sera, quando John tirò fuori i suoi libri, Meg si sentì mancare il cuore. Per la prima volta da che erano sposati, ella ebbe paura di suo marito. Le pareva che gli occhi di lui, buoni e dolci, si rivelassero per la prima volta capaci di uno sguardo severo. John di solito era gaio, ma quella volta le fece l'impressione che avesse scoperto ogni cosa e non lo volesse mostrare. I conti di casa erano tutti pagati, i libri in ordine. John disse brava e passò ad aprire il vecchio portafogli che si chiamavano la loro banca. Meg sapeva che era vuoto e gli fermò la mano dicendo con voce tremante: Non hai ancora veduto il libro delle mie spese private? Quel libro John non chiedeva mai di vederlo, ma lei sempre insisteva perché lo guardasse e poi si divertiva ai suoi commenti quando egli imparava di quali cose curiose ha bisogno una donna e cos'era una zagana o una blonda e non arrivava a capire come mai un affare composto di tre boccioli di rosa, un pezzetto di velluto e un paio di nastri fosse un cappello da signora e costasse 5 o 6 dollari. E anche quella sera si preparava come le altre volte a fare il pignolo per ischerzo, a discutere le cifre, a scandalizzarsi delle prodigalità di Meg, superbo dentro di sé di avere una moglie tanto giudiziosa. Il libretto venne fuori, adagio adagio, e gli fu aperto sotto gli occhi. Meg gli si mise alle spalle col pretesto di spianargli con una mano le rughe sulla fronte stanca e ritta là dietro, con la voce che le mancava parlò. John, caro, mi vergogno a fartelo vedere questo libretto, sono stata senza giudizio. Sai, esco molto e ho bisogno di tante cose e così ho ascoltato il consiglio di Sally e l'ho comprato. Una parte la pago col denaro che avrò a Capodanno, dopo mi sono pentita tanto. Cosa penserai di me adesso? John rise e l'attirò a sé. Non far misteri, non ti batterò per un paio di stivaletti irresistibili. Ne sono orgoglioso io dei piedini di mia moglie. E se si tratta di 7 o 8 dollari, purché gli stivaletti siano di buona qualità. Erano stati una delle ultime cianfrusaglie comprate e John abbassava gli sguardi per ammirarli. Cosa dirà quando vedrà quella cifra terribile di 50 dollari? Pensò Meg con un brivido. È peggio. È un vestito di seta, ella disse col coraggio disperato di chi ingoia un sorso da un calice amaro. Ebbene, cara, quanto sarà mai? Egli rideva ancora, ma nel tono c'era una punta di nervosità, d'una impazienza che Meg non aveva mai udito. Ella non lo guardava, ma sentiva lo sguardo fermo di lui, quello sguardo che ella era sempre pronta ad affrontare con ugual fermezza, finora. Voltò il capo verso di lui e voltò la pagina, indicando un totale che era già eccessivo anche a toglierne quei terribili 50 dollari, ma che con quelli faceva paura. Vi fu un minuto di silenzio. Al fine John parlò lento e calmo, ma ella sentì che faceva un grande sforzo per non rimproverarla. Beh, dopo tutto, 50 dollari non è poi tanto per un vestito, con tutti gli annessi e connessi che ci vogliono oggigiorno per finirlo. Non è mica completo, sai. È da fare, questa è la stoffa sola. Le ultime parole Meg le disse con un filo di voce. Fino allora non ci aveva nemmeno pensato alle guarnizioni e alla fattura, e fu un nuovo terrore che venne ad aggiungersi a quello di prima. 20 yard di seta è parecchio per vestire una piccola donna, ma sono certo che quando mia moglie le avrà indosso farà figura quanto la moglie di Ned Moffat. Il tono di queste parole fu piuttosto secco. Lo so che sei in collera, John, ma come fare? Non ne avevo nessuna intenzione di gettare il tuo denaro a questo modo e non ho saputo calcolare dove si arriva a forza di spese da nulla. A vedere Sally che compra tutto ciò che vuole e mi guarda con compassione perché non faccio altrettanto, che vuoi? Cerco di trattenermi, ma è duro, sai? Sono stanca io di essere povera. Le ultime parole furono dette a voce così bassa che Meg sperò non fossero state udite. Ma John udì e ne fu profondamente ferito, lui che rinunziava a tanti piaceri per lei. Si levò, respingendo i libri, e con un leggero tremito nella voce disse: Lo temevo che sarebbe andata così. Io faccio quello che posso, Meg. Se le avesse fatto un rimprovero, se l'avesse anche presa per le spalle e scrollata, non le avrebbe fatto male come le fece con quelle poche parole. Ella lo raggiunse, gli gettò le braccia al collo, piangente, pentita. John, caro, mio povero, caro bimbo che lavora tanto, non volevo dirlo, sai, sono stata cattiva, ingrata, vile, come ho fatto a parlare a quel modo? Come ho potuto? John fu buono, le perdonò presto. E non ebbe una parola di rimprovero. Ma Meg sapeva di aver detto e fatto una cosa che non sarebbe stata subito dimenticata, per quanto egli non gliene parlasse e non vi accennasse mai. Amarsi per il meglio e per il peggio, dice la formula del matrimonio. Ed era stata lei, sua moglie, che gli aveva rinfacciato la loro povertà, dopo aver speso senza giudizio il denaro guadagnato da lui. Era orribile, e il peggio fu che John, da quel giorno in poi, tirò avanti come se nulla fosse. Con la differenza, però, che rimaneva in città fino a un'ora più tarda e stava desto a lavorare la sera quando lei era sola in letto, a piangere finché non la coglieva il sonno. Dopo una settimana di rimorsi, Meg per poco non si ammalò. Quando poi scoprì che John aveva contromandato l'ordine per il proprio soprabito nuovo, la disperazione di lei giunse a un punto da far pietà. Sorpresa, gli domandò spiegazione per quella rinuncia. Ed egli rispose semplicemente: Non me lo posso permettere, cara mia. Meg non insisté, ma pochi minuti dopo egli la trovò nella camera d'ingresso a piangere disperatamente con la faccia sepolta nelle pieghe del vecchio soprabito. Quella notte ebbero un lungo colloquio e Meg imparò ad amare suo marito ancora più e meglio perché era povero, perché la povertà aveva fatto di lui un uomo, dandogli la forza e il coraggio di farsi la sua strada nel mondo, dandogli la pazienza e la tenerezza per sopportare certe debolezze e certe aspirazioni nella donna che amava. E il giorno dopo, ella depose ogni orgoglio, andò da Sally e le raccontò tutta la verità, chiedendole per favore di rilevare quel taglio di seta. La buona amica consentì volentieri ed ebbe la delicatezza di non fargliene dopo un regalo. Allora Meg passò a ordinare che il soprabito di suo marito le fosse mandato subito a casa e quando gli ritornò la sera, lei se l'era infilato e gli domandava: Ti piace il mio vestito nuovo? La risposta si può immaginare, e come il dono venne accettato e come furono felici. John ricominciò a rincasare presto, Meg non pianse più. E il soprabito era infilato ogni mattina dal più felice dei mariti e gli veniva sfilato ogni sera dalla più devota delle mogli. Così passò un anno e con l'estate Meg conobbe un'altra esperienza, la più tenera e la più profonda di quante la vita ne riserva alla donna. Un sabato che Lori entrava in punta di piedi nella cucina del nido, col volto animato da una vaga curiosità, vi fu ricevuto da Anna a suon di piatti, rappresentati da una padella e relativo coperchio. Come sta la nostra mammina? Come stanno tutti? Perché non mi avete avvisato prima? Domandò Lori sottovoce, ma un po' risentito. Beata come una regina, il mio tesoro. Tutti sono di sopra in adorazione. Non abbiamo avvertito perché non volevamo il terremoto in casa. Adesso andate in salotto e ve li mando giù. E con questa comunicazione un po' sibillina, Anna sparì. Chissà perché era tanto contenta e rideva sotto i baffi. Ben presto venne giù, tutta fiera, portando una specie di pezza di flanella arrotolata sopra un largo cuscino. Era seria giù, ma gli occhi le scintillavano e la voce aveva un timbro curioso, come di emozione contenuta. Su, chiudi gli occhi e stendi le braccia, disse. Lori, pronto, retrocedé in un angolo con le mani dietro la schiena. No, no, non me lo dare in braccio. Ho paura di lasciarlo cadere o di fargli male, te l'assicuro. E allora non lo vedrai, il tuo nipotino, disse Joe, facendo l'atto di voltarsi per andar via. Sì che lo voglio vedere, ma dei danni ne rispondi tu. E obbediente, eroico, Lori chiuse gli occhi e si sentì deporre qualche cosa sulle braccia. Subito gli rifece riaprire una risata di Joe, di Amy, della signora March, di Anna e di John. Sulle braccia gli avevano posato due pupi invece di uno. Era ben naturale tanta ilarità. La faccia che fece Lori avrebbe spianato la fronte ad un quacchero. Se li guardava tutti e due, i pupi addormentati, con uno sguardo che andava da essi agli spettatori e viceversa, così stupito che Joe si mise a sedere sul pavimento e rise a crepapelle. Per Diana! Due gemelli! Per un minuto Lori non seppe dire altro, ma si rivolse tosto alle donne con uno sguardo supplichevole. Per carità, levatemeli! Adesso mi metto a ridere anch'io e mi cascano! John glieli tolse. E se li portò innanzi e indietro, uno per braccio, quasi fosse già esperto nei misteri dell'arte della puericoltura, e Lori poté sfogarsi e ridere fino alle lacrime. È la burla più bella della stagione, no? Non te l'ho voluto scrivere, ci tenevo a farti la sorpresa e mi pare d'esserci riuscita, disse Joe quando ripresero fiato. Non c'è dubbio, me l'hai fatta grossa. Ma che bellezza, sono due maschietti, che nome gli darete? Fatemeli guardare ancora. Reggimi, Joe, ho paura di non farcela da me, te lo assicuro. E Lori tornò ad osservare i due neonati con l'aria di un grosso Terranova che guarda bonariamente un paio di gattini. No, maschio e femmina sono. Ma che bellezza, eh? Esclamava orgoglioso il babbo, col volto raggiante fra i due marmocchi che per lui erano due angeli ancora in plumi. Interessantissimi. Qual è il maschio e qual è la femmina? Chiese Lori, chinandosi per esaminare ben da vicino i due piccoli prodigi. Amy ha messo i nastrini azzurri al maschio e rosa alla femmina, come usano in Francia, così li riconosciamo. E poi uno ha gli occhi azzurri e l'altro li ha scuri. Baciali, zio Teddy, disse Joe maligna. Temo che non gli piacerà, cominciava Lori, questa volta insolitamente timido in fatto di baci. Ma sì, che gli piacerà, ci sono già avvezzi. Su, fa presto. Comandò Joe, per timore che Lori li volesse baciare per interposta persona che sarebbe stata lei. Lori si fece coraggio e ubbidì con un grosso bacione sonoro sulle rose e gote che fece scoppiare Joe in un'altra risata e strillare i due pupi. Te l'avevo detto io, il maschio è questo, si vede, guardalo come calcia, come picchia, pare già un pugilatore. Senti, Brooke, Junior, pigliatela un po' coi campioni del tuo peso, eh? Esclamò Lori, divertendosi un mondo a sentire il piccolo pugno agitato a casaccio che gli sfiorava il naso. Lo chiameremo John Lawrence e la bimba Margherita, come i nonni. Ma invece di Margherita o di Meg, diremo Daisy. Per fortuna sono tanti i vezzeggiativi di Margherita. Avremo Margaret, Meg e Daisy. Il maschio credo che sarà Jack, a meno che non si escogiti qualcosa di meglio, disse Amy con aria autorevole di zia. Allora chiamalo Demi John, mezzo John, perché già per metà è Lawrence, e per brevità diremo Demi. Daisy e Demi, bellissimo! Lo sapevo che Teddy l'avrebbe avuta la trovata, esclamò Joe battendo le mani. L'ebbe, certo, questa volta. Perché i due gemelli furono Daisy e Demi per sempre. Capitolo 6. Visite. Vieni, Joe, è ora. Ora di che? Ah, non mi vorrai mica dire che ti sei scordata la promessa di venire a fare 5 o 6 visite con me oggi. Di cose imprudenti e sbagliate ne avrò fatte tante in vita mia, ma non credo di essere mai stata così matta da impegnarmi a fare 6 visite in un giorno. Basta una sola per sconvolgermi tutta una settimana e ce n'è d'avanzo. Sicuro che l'hai promesso. Abbiamo fatto un patto, tu ed io. Io ti finivo il ritratto a pastello di Beth e tu da brava venivi con me a restituire le visite ai vicini. Se faceva bello, questo era il patto e intendo mantenerlo scrupolosamente, cara la mia strozzina. C'è un mucchio di nuvoloni verso Levante, dunque non fa bello e io non vengo. Oh, questo si chiama cercar pretesti. La giornata è magnifica, non vuol piovere affatto. Tutti vanti di mantenere sempre ciò che prometti, perciò hai un obbligo d'onore. Hai il dovere di venirci. Dopo, per 6 mesi, non avrai altri fastidi. In quel momento, Jo era occupatissima a far la sarta. Era la fornitrice di tutta la famiglia e non poco fiera di essere brava con l'ago non meno che con la penna. Era molto irritante per lei vedersi disturbata al primo esperimento e doversi mettere in gingheri e andare a far le visite. E tutto questo nel mese di luglio. Le visite formali erano la sua grande antipatia e non ne faceva se non quando Amy la metteva con le spalle al muro con un patto, un regalo o una promessa. Questa volta, per esempio, non c'era scampo. E Joe sbatté le forbici sulla tavola, facendo Protestò che sentiva nell'aria odor di temporale, ma dovette cedere, riporre il lavoro, prendere guanti e cappello con l'aria di una vittima rassegnata. Eccomi pronta, sospirò. Joe March, voi fareste arrabbiare un santo. In codesto stato vorreste fare le visite, spero di no, esclamò Amy esaminandola sorpresa da capo a piedi. E perché no? Sono forse sporca? Così sto fresca e comoda. È la toeletta che ci vuole col caldo e il poverone che c'è. Se la gente bada più a come sono vestita che a me, non voglio vederla, la gente. Mettiti tu in eleganza per due. Fatti bella finché vuoi. Tu ci guadagni. Io no, per me tanti fronzoli non sono che un fastidio, un impaccio. Oh, signore, gemé Amy. Proprio adesso ti viene l'accesso di ostruzionismo. Ce ne vorrà per vederti in ordine. Ci perderò la pazienza. Con la voglia che ne ho anch'io oggi di far visite. Ma è un debito che abbiamo verso la gente, e per pagarlo non ci siamo che tu e io. Ti prometto tutto quello che vuoi, se ti vesti a dovere, vieni con me a fare la persona per bene. Tu sai parlare all'occorrenza e hai un'aria così fine, aristocratica, quando ti metti addosso le tue cose più belle. Hai un contegno tale da persona superiore che mi fai insuperbire di te. Non mi lasciare andare da sola, ho paura. Vieni tu a sostenermi, a... Ecco la gattina che fa le moine per smuovere la vecchia sorella brontolona. Fine, aristocratica, ben educata. Io? E tu che hai paura di andar sola? Non so quale mi fa più ridere di queste idee. Basta, se devo venire, eccomi, farò quello che potrò. Ma comandare e dirigere tocca a te. Io ti ubbidirò ciecamente, va bene? Così parlava Gio, passando d'un tratto dall'ostinazione a una condiscendenza da agnellino. Sei proprio un angelo. Allora, mettiti le cose più belle che hai, e io ti dirò ogni volta come contenerti per fare buona impressione. Voglio che la gente ti trovi simpatica, come accadrebbe sempre solo che tu ci mettessi un po' di buona volontà. Pettinati nel modo migliore, mettiti il nastro rosa al cappello, così andrà bene. Il tuo vestito di tutti i giorni è troppo severo. Prendi i guanti di capretto e il fazzoletto ricamato. Uscendo passiamo da Meg e ti fai prestare il parasole bianco. Oppure no, andrà bene quello mio, color tortora. Amy si vestiva senza smettere di dare gli ordini e Joe obbediva, ma non senza qualche protesta. Al fruscio del vestito nuovo di organzino ebbe un sospiro. Nell'annodarsi impeccabilmente i nastri del cappello, corrugò la fronte. Una smorfia di malcontento le si diffuse in volto quando fu alle prese con gli spilli per applicarsi il colletto e quando sentì sul naso il ruvido del fazzoletto ricamato che in certo modo per lei riassumeva tutto il tedio e la contrarietà della giornata mondana impostale. Quando ebbe serrate le mani nei guanti stretti, due bottoni e una mandoletta, che erano l'ultimo tocco per completare la sua eleganza, Joe si rivolse alla sorella con un'aria perfettamente idiota e osservò rassegnata. Eccomi in fondo all'abisso della sventura. Ma se ti pare che io sia presentabile, morirò felice. Oh, presentabilissima sei. Girati un po'. Adagio, adagio. Fatti vedere bene. Joe eseguì e Amy, dopo qualche ritocco qua e là, fermandosi col capo chinato da un lato, disse al fine con un sorriso: Sì, potrà andare. La testa non lascia a desiderare nulla. Col nastro rosa e il cappello bianco è un amore. Sta su con le spalle e porta le mani con disinvoltura, anche se i guanti ti sono stretti. C'è una cosa, vedi, Joe, che tu puoi fare benissimo e che a me non riesce: portare lo scialle. A te invece va stupendamente, ed è una fortuna che la zia Marcia te ne abbia regalato uno così bello. Sicuro, semplice ma bello. Le pieghe, quando lo porti posato sul braccio, sono una cosa veramente artistica. Guarda un po', per favore. La punta della mia giacca è ben in mezzo e l'orlo viene ben pari? Ho piacere che gli stivaletti mi si vedano perché il naso non l'ho bello, ma i piedi sono così graziosi. Tu sei tutta una cosa di bellezza ed una gioia per sempre. Disse Joe citando Keats, mentre i suoi occhi ammiravano l'effetto di una penna azzurra sui capelli d'oro della sorella. E dite un po', signora, col mio vestito migliore devo spazzare la polvere o devo rialzarlo con la mano? Tienlo su in strada quando cammini, in casa lascialo cascare. Questo è più nel tuo stile e bisogna che tu impari a farlo con grazia. Questo guanto non è ben abbottonato. Metti in ordine subito. Non farai mai bella figura finché non starai attenta ai minimi particolari. Sono quelli che con loro insieme danno la vera eleganza. Joe, con un sospiro, si accinse a far entrare l'ultimo bottone del guanto nel relativo occhiello, fatica non lieve. E alla fine furono pronte e partirono. Belle come due immagini, secondo l'espressione di Anna che si sporgeva dalla finestra per ammirarle. Adesso, cara Joe, ascoltami bene. I Chester sono gente molto chic e per loro devi sfoggiare il tuo contegno migliore. Non uscire con certe osservazioni vivaci. Misura in tutto. Evitare le originalità, hai capito? Calma, fredda, tranquilla, prudente, signora. Per 15 minuti non sarà una gran fatica. Erano già passate da Meg a prendere il parasole bianco e Meg le aveva ispezionate tenendo in braccio i due pupi, uno per parte. Vediamo un po'. Calma e fredda. Va bene, credo che ci riuscirò. Ho recitato una volta una parte di signora molto rigida. Cercherò di ricordarmela. Lascia fare a me. Puoi stare tranquilla, bimba. Amy fece un sospiro di sollievo. Ma quando fu alla prova, quella canaglia di Joe prese la parte troppo sul serio e per tutta la prima visita rimase composta, con tutte le pieghe del vestito correttamente cadenti. Immobile come il mare in calma piatta, fredda come il ghiaccio e muta come una sfinge. Invano la signora Chester fece allusione al suo delizioso romanzo. Invano le signorine Chester parlarono di gite, spettacoli d'opera e mode. Non le tirarono fuori che un sorrisetto, un inchino del capo, un sì ed un no dignitoso e gelato. Invano Amy cercò di farle segno che parlasse di più e gliene offrisse l'occasione. La esortò anche con qualche furtiva pedata. Joe rimaneva lì, come se nulla fosse. Niente valse a smuoverla. Superba e niente interessante quella marcia più grande. Fu il commento di una signora mentre la porta non si era ancora chiusa alle spalle delle due sorelle. Joe sorrise trionfante mentre traversava l'atrio, ma Amy aveva l'aria disgustata per il suo fiasco dopo tante istruzioni e naturalmente se la prese con Joe. Non mi hai capita tu! Ti raccomando, dignità e compostezza e tu mi diventi un ciocco di legno, una pietra! Adesso andiamo dai Lamb, da loro cerca di essere un po' più socievole, di chiacchierare un po' come fanno tutte. Mostrare un briciolo di interesse per le mode, per i flirt, per tutte le altre sciocchezze di cui parleranno. Sono gente che va nella migliore società e per noi conoscenze preziose. Bisogna assolutamente cercare di fare buona impressione. Oh, lascia fare a me. Sentirai questa volta come voglio cicalare e che risatine idiote, che orrori, che ammirazioni per il fatto più insignificante. Per me è più divertente fare quello che si chiama la ragazza carina. È una parte che conosco benissimo. Prenderò per modello May Chester, superandola. Vedrai che i Lamb diranno: Ma com'è vivace, com'è simpatica quella Jo March. Amy non era punto rassicurata e ne aveva ben donde. Quando Jo si scatenava, lo sa il cielo dove era capace di arrivare. Fu uno spettacolo la faccia di Amy quando vide la sorella entrare a gonfie vele nel salotto dei Lamb, abbracciare con effusione tutte le signore e le signorine, volgere un sorriso raggiante alle persone dell'altro sesso e prender parte alla conversazione con una vivacità, uno spirito da far restare a bocca aperta. Amy, accaparrata dalla signora Lamb, che aveva per lei una gran simpatia, dovette sorbirsi un lungo racconto dell'ultimo attacco del male di Lucrezia. E intanto tre giovanotti brillanti erano lì, pronti alla riscossa per trarla in salvo alla prima pausa. Sicché Amy non poteva tenere d'occhio la sorella e guidarne le mosse, e Joe si scatenava come invasa da un demonietto maligno e cicalava inesauribile come la vecchia signora Lamb, in mezzo a un circolo di facce attente. Amy tendeva l'orecchio cercando di capire che cosa diceva, qualche frase colta qua e là la fece tremare. Vedeva intorno a Joe occhi spalancati e gesti di meraviglia esasperanti, scoppi di riso che le mettevano una smania di accorrere. Si può immaginare cosa soffriva quando le giungevano all'orecchio certi frammenti di dialogo. Monta splendidamente, chi le ha insegnato? Nessuno. Si è esercitata con le redini, a cavalcare e a tenersi dritta sopra una sella collocata nella forma di un albero. Adesso monta qualunque cosa perché non ha paura di niente, e il padrone della scuderia le fa un ribasso perché con lei i cavalli si abituano a portare le amazzoni. E che passione! Tante volte io le dico che in caso disperato si guadagnerà sempre la vita facendo la domatrice. Sarebbe una domatrice assai graziosa, eh? Amy inorridiva e a stento si tratteneva dalla correre. Dunque Joe dava a tutti l'impressione che lei, Amy, era una ragazza maschio, la sua antipatia più grande. E non potersi muovere! La vecchia Lamb era nel più bello del racconto e Joe era partita in una nuova direzione con rivelazioni anche più curiose e topiche anche peggiori. Già, quel giorno Amy era disperata. Tutti gli animali buoni erano presi e dei tre che rimanevano uno era zoppo, un altro guercio e l'ultimo così placido che per farlo muovere ci voleva il pepe, capite? Bello, per una gita di piacere. E quale scelse? Domandò uno dei giovanotti che si divertivano un mondo. Nessuno dei tre. Le dissero che al di là del fiume c'era un puledro che non aveva mai portato in sella Mazzoni e lei appunto per questo lo volle provare. E anche perché era un bell'animale, tutto sangue. Fu una lotta impressionante, a cominciare dal sellarlo, perché non c'era nessuno capace di farlo. E lei prese la sella con le sue mani, entrò nel battello, prese i remi e con la sella sulla testa, fra lo stupore di tutti, si avvicinò all'animale. Ci riuscì a montarlo? Altro che! E si divertì un mondo. Io mi aspettavo di vederla riportare a casa in pezzi, invece lo dominò perfettamente e fu lei l'anima della compagnia. Questo per me si chiama avere stoffa, disse il giovane Lamb, volgendo uno sguardo di ammirazione dalla parte di Amy. Ma cosa le diceva mai sua madre da farla diventare tutta rossa e da tenerla, si vedeva, sulle spine? Anche più rossa e più sulle spine era un momento dopo, quando il discorso passò ai vestiti. Una signorina chiese a Joe dove aveva preso quel grazioso cappello grigio che aveva all'ultima gita e Joe, stupida, invece di dire al negozio dove era stato comperato 2 anni prima, cosa ti va a rispondere con la sua franchezza fuori di luogo? Quello? Oh, lo ha dipinto Amy. Sono mezze tinte che in vendita non si trovano, perciò noi le dipingiamo. È un gran vantaggio avere una sorella artista. Oh, l'idea è originale, esclamò Miss Lamb, e con Joe si divertiva molto anche lei. Questo è niente in confronto a tutte le cose che riesce a fare Amy. Non c'è nulla di impossibile per lei. Per la gita con Sally le occorrevano gli stivaletti azzurri. Ebbene, ne ha preso un paio bianchi, che si erano macchiati, li ha dipinti in una magnifica sfumatura di azzurro chiaro. Pareva proprio seta. Joe parlava con tanto orgoglio della bravura di sua sorella, mentre questa pensava che sollievo poterle tirare in testa il portabiglietti. Abbiamo letto un racconto vostro l'altro giorno. Ci è piaciuto assai, osservò la maggiore delle Lamb per fare un complimento alla scrittrice che, specialmente in quel momento, bisogna dirlo, non ne aveva affatto l'aria. Sempre a parlarle delle sue opere si indispettiva, taceva e magari pareva offesa, o cambiava discorso con qualche osservazione brusca. E così fece ora. Non aveva nulla di meglio da leggere? Oh, mi dispiace. È robaccia che si scrive perché si vende e alla gente ordinaria piace. Quest'inverno andate a New York? Visto che il racconto era piaciuto a Miss Lamb, non era una gentilezza né un complimento parlarne come ne parlava Joe, la quale si accorse della topica e, presa dal timore di far peggio, si rammentò ad un tratto che secondo gli accordi toccava lei la prima mossa per prender congedo. E lo fece e con una prontezza che troncò a metà il discorso a 3 degli interlocutori. Amy, bisogna andar via. Addio, cara, venite a trovarci. Moriamo dalla voglia di avervi un po' con noi. Non oso dirlo a voi, signor Lamb, ma se ci venite, non credo che avrò il cuore di lasciarvi andar via. Queste ultime parole le disse rifacendo così comicamente il tono svenevole di May Chester che Amy scappò più presto che poté, con una gran voglia di mettersi a ridere e a piangere nello stesso tempo. Ti è piaciuto? Le chiese Joe appena furono uscite, contenta di sé. Peggio non potevi fare! La risposta era schiacciante. E poi cosa ti viene in mente di raccontare della mia sella e dei capelli e gli stivaletti dipinti e tutto il resto? Ma non è stato da ridere! E non si divertivano tutti quanti, che non siamo ricche lo sanno. E allora perché darsi l'aria di avere dei servi, di comprare 3 o 4 cappelli ogni stagione e di vivere la bella vita comoda che vivono loro? Ma che bisogno c'è di andare a raccontare tutti i ripieghi a cui si ricorre e mettere in mostra la nostra povertà? Tu non hai un'ombra di quell'orgoglio che bisogna avere e non imparerai mai quando devi tacere e quando devi parlare. Amy era disperata. Tutta avvilita, la povera Jo si fregava in silenzio la punta del naso col ruvido fazzoletto a ricami, quasi volesse punirsi. Come devo comportarmi qui? Domandò quando giunsero alla terza casa da visitare. Come ti pare, io me ne lavo le mani, rispose Amy secca secca. Oh, allora sarà divertente. I ragazzi ci saranno e staremo bene. Ne ho bisogno di cambiare un po'. Le eleganze mi fanno male alla salute, ribatté Joe con una certa durezza. I due insuccessi la irritavano. L'accoglienza entusiastica che ebbe dai tre fanciulloni e da parecchie graziose bimbe le ridiede in breve la serenità e l'allegria. Lasciò ad Amy l'incarico di fare i convenevoli alle padrone di casa e al signor Tudor, che si trovava là in visita. Joe si dedicò alla ragazzaglia e per lei fu un vero sollievo. Col più profondo interesse ascoltò i racconti della loro vita di scuola. Accarezzò senza ripugnanza i cani da caccia e i barboncini che le presentarono. Ammise di buon grado che Tom Brown era un simpaticone senza formalizzarsi per la forma plebea dell'elogio. E quando uno dei ragazzi propose una visita alla vasca delle tartarughe, accettò con entusiasmo, che le valse un sorriso di compiacimento dalla mamma del ragazzo, mentre si aggiustava la cuffia messa le sossopra da un abbraccio del figlio, un piccolo selvaggio affettuoso. Una cuffia all'antica, che la buona signora preferiva alla coiffure più impeccabile della cameriera francese. Amy lasciò che Joe se la sbrigasse da sé. E per quello che la riguardava, si trovò benissimo con la compagnia che preferiva. Bisogna sapere che lo zio di Tudor aveva sposato un inglese che era cugina in terzo grado di un autentico lord, sicché Amy aveva per quella famiglia una considerazione particolare. Malgrado la nascita e l'educazione americana, ella aveva quella reverenza per i titoli dalla quale non vanno esenti i migliori di noi, che è una traccia non confessata di quella fedeltà primitiva ai re per cui la nazione più democratica che viva sotto il sole si mise tutta in fermento qualche anno fa per la visita di un ragazzotto dai capelli gialli. C'entra molto in questo sentimento l'amore del nuovo paese per quello vecchio, paragonabile a quello di un ragazzo ventenne per la piccola mamma esigente ed imperiosa che lo ha tenuto in soggezione finché ha potuto. E quando egli si è ribellato, lo ha lasciato andare con una lavata di testa come un congedo. Ma nemmeno la soddisfazione di parlare con un parente lontano della nobiltà britannica bastò a far dimenticare ad Amy che il tempo vola. Passati quei tanti minuti che la convenienza imponeva, ella si strappò a malincuore dall'aristocratica compagnia. Con lo sguardo cercava Joe pregando in cuor suo il cielo che l'incorreggibile sorella non ne avesse nel frattempo combinata una delle sue. Ciò che vide poteva essere di peggio, ma per Amy era già abbastanza. Joe, seduta sull'erba con un branco di ragazzi d'intorno e un cane con le zampe infangate che le posava il muso sul vestito di parata, mentre lei raccontava all'uditorio ammirato una birbonata di lori. Un piccino stuzzicava le tartarughe col parasole, un altro mangiava i biscotti sopra il più bel cappello di Joe, un terzo giocava a palla coi guanti di lei. Tutti felici e contenti del resto, e quando Joe nell'andarsene raccolse la sua roba deteriorata, l'accompagnarono raccomandandole che tornasse, perché si erano divertiti tanto con le birichinate di Lori. Simpatici questi ragazzi, eh? Mi hanno divertita, mi hanno ridato la vita. Dichiarò Joe, avviandosi con le mani dietro la schiena, un po' per abitudine, un po' per non far vedere il parasole inzaccherato. Perché eviti sempre il signor Tudor? Domandò Amy, saggiamente astenendosi da qualsiasi commento sulle condizioni deplorevoli delle vesti di Joe. Non mi piace. È pieno di arie, dà mille fastidi a suo padre, non parla con abbastanza rispetto di sua madre. Lori dice che è un poco di buono ed io per mio conto non lo considero una conoscenza desiderabile, per cui lo tengo alla larga. Ma almeno potresti trattarlo civilmente. Non gli fai che un cenno del capo freddo freddo, mentre appena un momento fa hai avuto il tuo inchino e il tuo sorriso più gentile per Tommy Chamberlain, che è figlio di un droghiere. Tutto il contrario di quello che avresti dovuto fare, disse Amy severa. Niente affatto, ribatté maligna Joe. Io non trovo simpatico né degno di rispetto né di ammirazione, Tudor. anche se la nipote del nipote dello zio di suo nonno era cugina in terzo grado di un lord. Tommy è povero, è timido, è buono, è intelligente e io ho molta stima per lui e mi piace dimostrargliela, perché sebbene il padre venda pepe e candele, lui è un gentiluomo. Ah, oh, è inutile discutere con te, cominciava Amy. Perfettamente inutile. Per cui cerchiamo di fare le persone gentili e lasciamo la carta da visita qui, perché evidentemente i King non sono in casa e sia ringraziato il cielo. Deposti i biglietti, proseguirono. Alla quinta casa, Joe ringraziò di nuovo il cielo perché fu detto loro che le signorine erano occupate. Adesso andiamo a casa. La zia marce per oggi, lasciamola stare. Ci possiamo andare quando vogliamo. Ed è un vero peccato prendere tanta polvere con la roba migliore indosso e già stanche e arrabbiate. Parla per te se vuoi. La zia ci tiene molto alla visita formale in pompa magna. Costa poco e le fa molto piacere. Per il tuo vestito non so che riguardi puoi avere ormai, dopo che ci sono passati con le zampe infangate cani e ragazzacci. Chinati un po', hai il cappello coperto di briciole. Come sei buona, Amy, disse Joe, confrontando con un'occhiata di pentimento il suo abbigliamento mal ridotto con quello della sorella che era ancora fresco e immacolato. Come vorrei essere capace anch'io, come lo sei tu, di quelle piccole gentilezze che fanno tanto piacere alla gente. Qualche volta mi vengono in mente, sai, ma a farle ci vuole troppo tempo e così aspetto le occasioni grosse per fare dei favori e lascio perdere quelle piccole, ma tutto sommato riconosco che queste rendono di più. Amy, rabbonita, sorrise e disse con aria materna: Le donne dovrebbero imparare a essere sempre gentili, specialmente se sono povere e non hanno altro modo per ripagare le cortesie che ricevono. Se tu tenessi presente questo e lo mettessi in pratica, saresti amata anche più di me perché vali di più. Oh, io sono e sarò sempre una zitellona dispettosa, ma riconosco di buon grado che tu hai ragione. Se non che a me riesce più facile mettere in pericolo la vita per una persona che trattarla con gentilezza quando non me la sento. È una gran disgrazia, è vero, avere delle simpatie e delle antipatie forti. Beh, la vera disgrazia è di non saperle nascondere. Sia detto fra noi, quel Tudor non piace nemmeno a me. Ma non spetta a me di dirglielo e nemmeno di farglielo capire. E allora perché essere scortesi con lui? Ma secondo me le ragazze, quando non approvano un giovanotto, devono farglielo intendere. E com'è possibile se non glielo dimostrano con le loro maniere? Le prediche non servono. L'ho imparato a mie spese, purtroppo, con Teddy. Ma ci sono tanti piccoli modi di influire sulle persone senza dire una parola. Bisognerebbe farlo con tutti, potendo. Teddy è un ragazzo fuori del comune, non si può prendere come campione per tutti, disse Amy con un'aria solenne di convinzione che avrebbe fatto scoppiare dal ridere se fosse stato presente il ragazzo fuori del comune. Se noi fossimo due signore eleganti, ricche e in elevata posizione sociale, allora forse si potrebbe fare qualcosa. Ma arricciare il naso ad una compagnia di giovanotti perché non li approviamo, oppure sorridere per la ragione opposta, se lo facciamo noi non ha nessun effetto. Serve solo a farci passare per ragazze all'antica, per puritane. E allora dobbiamo far buon viso a cose e a persone che detestiamo solo perché non siamo né eleganti né milionarie, eh? Bella morale, dico io. Io trovo che è inutile discuterla. Il mondo è così, e coloro che si mettono controcorrente si rendono ridicoli. I riformatori non mi piacciono e spero che non ti verrà in testa di fare la riformatrice. A me piacciono invece e se mi riuscirà sarò una riformatrice. Rida finché vuole il mondo, ma senza di loro non andrebbe avanti. È una cosa su cui non possiamo andare d'accordo, tu ed io. Tu appartieni alla generazione vecchia, io a quella nuova. Tu vivrai meglio, ma io avrò una vita più movimentata, più divertente. Credo che mi divertirebbero anche la lapidazione e il crucifige. Beh, adesso ricomponiti un po' e non spaventare la zia con le tue idee rivoluzionarie. Ah, farò il possibile, ma è sempre una gran tentazione quando mi ci trovo. Che vuoi? È il mio destino e non c'è rimedio. Dalla vecchia zia trovarono l'altra, la zia Carol. Erano assorti in un argomento molto interessante, ma appena comparvero le due ragazze si scambiarono un'occhiata di intesa e tacquero. Si vedeva bene che parlavano proprio di loro. A Joe era passato il buon umore e le era tornata la tentazione di farne qualcuna delle sue. Ma Amy che aveva la coscienza tranquilla di chi ha fatto il proprio dovere, dominandosi e riuscendo gradita a tutti, era in uno stato d'animo angelico. Le due vecchie sentirono subito la differenza e per Emi non lesinarono i gioia mia o i complimenti, preludio alla conclusione che formularono poi solennemente appena si ritrovarono sole ad una voce. Quella ragazza migliora ogni giorno. Ma adesso la zia Carol le chiedeva: «Dimmi, cara, prendi parte alla fiera tu?» Emi le si era seduta accanto con quell'aria di deferenza e di fiducia che i vecchi amano tanto nella gioventù. «Sì, zia, la signora Chester mi ha invitata e io ho preso l'impegno di tenere uno dei banchi. Che vuoi? Non ho che il mio tempo da offrire.» «Io no», interruppe Joe con fermezza. «Non mi van giù quelle aree di protezione. Quei Chester credono di farci un gran favore quando ci concedono di aiutarli nella loro fiera per gente altolocata. Non capisco perché hai accettato, tu, Amy. Ti sfruttano e nient'altro.» «Oh, ma io lavoro volentieri, tanto per i Friedman che per i Chester. Trovo che è molto gentile da parte loro invitarci a collaborare. La protezione non mi dispiace quando è a fin di bene.» Qui intervenne la zia Marge. «Giustissimo e ben detto, cara. Approvo la tua riconoscenza. È un piacere aiutare la gente quando la gente apprezza i nostri sforzi. Non tutti li apprezzano e questo è male.» La zia Marcia, al di sopra degli occhiali, guardava Joe seduta in un angolo che si dondolava con un'espressione seccata. Se Joe avesse saputo quale fortuna era in gioco per una di loro due in quel momento, in un istante sarebbe diventato un agnellino. Ma purtroppo nessuno ha una finestra nel petto. E non si può vedere ciò che succede dentro i nostri simili. In generale è meglio che sia così, ma di tanto in tanto sarebbe un gran conforto se fosse altrimenti e risparmierebbe tempo e nervi. Joe, con le parole che disse subito dopo, si giocò parecchi anni di gioia e ricevette una lezione salutare, ma dura. «I favori non li voglio, mi levano il respiro, mi fanno sentire che dipendo, che sono schiava. Meglio far da me e vivere indipendente.» Tossì la zia Carol sottovoce con un'occhiata alla zia Marge. «Te l'avevo detto, eh?» le rispose l'altra con un cenno d'intesa. Inconscia, per sua fortuna, di ciò che aveva fatto, Joe se ne stava col naso all'aria e un'espressione ribelle in volto che non era certo una raccomandazione. «Sai il francese, tu, cara?» chiese la zia Carol posando la mano su quella di Amy. «Discretamente, e ne ringrazio la zia Marce che mi lascia fare esercizio con Esther», rispose Amy con un'occhiata riconoscente, a cui la zia Marce rispose con un sorriso affabile. «E tu la sai qualche lingua estera?» chiese la zia Carol a Joe. «Nemmeno una parola. Quando si tratta di studiare divento una stupida. Il francese poi non lo posso soffrire. Lo trovo scemo, scivoloso.» Joe non lasciava il tono brusco. Un'altra occhiata d'intesa fra le due vecchie. «Amy», disse la zia Marge, «tu adesso stai bene, sei in forze, è vero? Quei disturbi alla vista non li hai più, mi pare.» «Sì, zia, tutto finito, ti ringrazio. Sto benissimo e questo inverno conto di fare grandi cose, di lavorare molto e prepararmi per Roma quando verrà quel giorno benedetto.» «Sei una buona figliola e meriti di andarci, e credo che ci andrai un giorno o l'altro», rispose la zia accarezzando la testa di Amy, che si era chinata a raccoglierle il gomitolo. «Chi al mondo non sa stare, né aprir né chiuder bocca, resta in casa a filare col fuso e con la rocca», esclamò il pappagallo, chinandosi sulla gruccia verso Joe, con un'aria così impertinente e buffa che bisognava ridere per forza. «Quel pappagallo osserva e capisce tutto», disse la zia Marge. «Andiamo a fare due passi, cara?» esclamò Polly svolazzando verso la credenza dove stava lo zucchero. «Sicuro? Andiamo, Amy?» disse Joe, cogliendo a volo l'occasione per troncare la visita, che come tutte le visite aveva per i suoi nervi un effetto deplorevole. Strinse la mano alle due vecchie con energia maschile. Amy, invece, le baciò e partirono, lasciando dietro di sé un'impressione contrastante di sole e nuvole. La zia March, appena fu sola con l'altra, le disse: «Fallo, Mary, deciditi. Al denaro ci penso io.» E la zia Carol subito rispose: «Sicuro che lo faccio, purché i genitori acconsentano.»